Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Negli ultimi anni la neurofisiologia ha fatto progressi enormi grazie a uno strumento, la risonanza magnetica funzionale, che consente di osservare il cervello mentre è in azione. Le immagini delle aree del cervello che si attivano una dopo l'altra mentre eseguiamo un compito sono state cruciali per capire come il cervello funziona realmente. Ebbene, di recente i ricercatori del gruppo Green Mat del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pavia, coordinato da Piercarlo Mustarelli, sono riusciti a mettere a punto ELMIN-MR, un apparato in grado di fare la stessa cosa in un settore diverso da quello medico, ma altrettanto importante, il settore dell'energia. Più precisamente parliamo di un nuovo tipo di microscopio progettato per investigare le caratteristiche delle celle a combustibili, ma anche di batterie e altri apparati elettrochimici, e questo mentre l'apparato è in funzione. Pensate che l'obiettivo della ricerca, i cui risultati sono pubblicati su Energy and Environmental Science, era considerato troppo avveniristico ed è stato raggiunto solo grazie al finanziamento ottenuto da questo gruppo con la vittoria del premio per la ricerca di frontiera in chimica, due premi Nobel in commissione offerto dalla Fondazione Calipo. Diamo il benvenuto a Piercarlo Mustarelli. Buonasera Mustarelli. Buonasera. Allora, partiamo da questa risonanza magnetica nucleare, che è un nome che molti ascoltatori conosceranno. Ci può ricordare in modo però elementare che cos'è? Beh, la risonanza magnetica nucleare è una tecnica che consente di ottenere informazioni su materiali e anche sull'uomo, studiando il comportamento dei nuclei di certi elementi chimici. In particolare il nucleo più importante che viene studiato è il protone, che è il componente, che è il nucleo dell'idrogeno, per esempio, sì, dell'acqua, esatto. Certo. In pratica questa risonanza magnetica fa una mappa della presenza di questo elemento che la macchina è in grado di mettere a fuoco con un meccanismo complicato, quantistico, insomma. Si può spiegare anche in modo relativamente semplice, cioè il campione da studiare, per esempio l'uomo, durante un'immagine di risonanza magnetica viene inserito in un campo magnetico statico che ha lo scopo di orientare i nuclei che si intendono studiare. L'orientamento di questi nuclei viene poi modificato applicando dei particolari impulsi a radiofrequenza, tanto per capirci, alle stesse frequenze a cui trasmette la vostra radio, ecco. Per rendere l'idea. E quando cessa l'impulso, il sistema torna all'equilibrio e la tecnica ottiene l'informazione studiando il ritorno all'equilibrio del sistema. Di questo sistema. Diciamo che se questo sistema fosse una chitarra, il campo magnetico sarebbe quello che tende le corde, esatto. L'impulso è quello che pizzica la corda e quello che viene misurato è il suono. È il e voi da questo suono capite che corde ci sono in questa chitarra. Ma la cosa più interessante è che quando la tecnica è stata introdotta negli anni, fino agli anni 40, si ascoltava proprio il suono utilizzando un altoparlante. Ah, ecco. Sembra incredibile, ma è così. È proprio così. Senta, voi utilizzerete questo strumento per indagare uno dei problemi più gravi che affliggono le attuali celle a combustibile, in particolare quelle polimeriche, sì, che sono anche le più diffuse. Ci spiega questo problema? Beh, le celle a combustibile sono dei dispositivi che in pratica funzionano facendo reagire ossigeno e idrogeno con la formazione di acqua e la produzione di energia. Ora, l'acqua da qualche parte bisogna metterla. In particolare, quando l'acqua viene formata all'interno della cella, può creare problemi alla cella stessa, per esempio può annegare, tra virgolette, delle componenti della cella e farla funzionare male. Cella. E quindi voi che cosa vedrete con questa macchina? Ecco, noi vediamo dove l'acqua va a formarsi e con che modalità mentre la cella sta funzionando. Perfetto, quindi è l'ideale per cercare di risolvere questo problema. Che cos'altro si potrebbe studiare con questa tecnologia? Beh, in realtà questa tecnologia può essere applicata, almeno in linea di principio, a quasi tutti i nuclei degli elementi chimici, per cui uno potrebbe studiare al posto della cella a combustibile il funzionamento delle batterie al litio, dove non si studia l'idrogeno ma si studia il litio, oppure il sodio, per esempio. Le nuove generazioni, le batterie di nuova generazione, sì, attualmente allo studio, possono essere basate sul sodio. Quindi apparecchi comunque elettrochimici, entro certi limiti anche apparati elettrici. Però la vostra macchina oggi lavora solo con l'idrogeno, perché è una caratteristica di questi macchinari essere sintonizzati su un solo elemento. Sì, dovreste, certo, sviluppare degli altri macchinari, giusto? E lo farete? Sì. La nostra intenzione ovviamente è quella di farlo. Al momento la cosa critica è che mancano i soldi. Ecco. Se ci fossero i soldi, sì. Ecco, allora, ecco, speriamo che saltino fuori. Grazie Piercarlo Mustarelli. Grazie a voi, arrivederci. È tutto, a lunedì. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento.